E benvenuti, ciao a tutti i nostri radioascoltatori. Abbiamo al telefono su Alma Radio il cantautore Francesco Guccini. È vero che questo a Bologna sarà il suo ultimo concerto? Per questo periodo sì, e poi prenderò un periodo sabbatico, chiamiamolo così, in cui dovrò lavorare per fare un disco e poi probabilmente farò qualche concerto dopo il disco. Insomma, adesso è tutto per il momento fermo. Quindi prendiamo un periodo di riposo e di lavoro in altro settore, in altri campi. Continuerà invece a scrivere album? Album, sì, appunto, questo disco che per cui nei prossimi mesi lavorerò e vediamo cosa esce, salta fuori. Certo, un disco penso di farlo prima o poi. La prima volta che, se non sbaglio, si trasferì a Bologna aveva 21 anni, era il 1961, e 20 anni dopo, nel 1981, ha scritto una canzone che parla di questa città, Bologna. Oggi, a 30 anni dalla pubblicazione dell'album Metropolis, qual è la differenza più evidente tra quella Bologna e questa di oggi? Ma la differenza più evidente è che 81 oggi sono passati tutti questi anni, e quindi anche la persona che ha cantato la Bologna allora è diversa, è cambiata in un certo modo, ahimè, purtroppo, e quindi questo, tanti amici sono persi, non ci sono più, certe atmosfere non esistono più, insomma, perché così è fatta poi la vita si cambia, si evolve, tante cose rimangono indietro o rimangono da una parte. E quindi non c'è più forse quell'atmosfera di una volta, quei giri di una volta, molti giorni li avranno, ci saranno, eccetera. E per me tante cose sono cambiate. Non ci sono più le osterie di fuori porta? Ho proprio paura di no, che non ci siano, o almeno ci sono, ma non come erano allora. Ma è vero come eravamo noi allora. È vero che una fra queste era il Moretto, oppure è una leggenda metropolitana? No, quando il Moretto si chiamava da Gandolfi, prima del Moretto andavamo lì quasi tutte le sere. Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia l'immagine.